Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati alla nostra rassegna stampa europea che dopo la pausa agostana ha ripreso il normale appuntamento del sabato. Questa settimana partiamo da un articolo apparso su Alternative Economique, magazine francese, e che Vox Europe, il sito che cito spesso, ha ripreso e ha anche tradotto, ed è un articolo che parte dal libro, l'ultimo libro di Joseph Stiglitz, che è un economista americano, autore forse di uno dei libri di microeconomia più famosi o più amati barra detestati, perché è adottato in moltissimi corsi anche in Italia di economia. Joseph Stiglitz ha spesso posizioni non ortodosse, e nel suo ultimo libro, che appunto si intitola The Euro, How a Common Currency Threatens the Future of Europe, che è pubblicato dalla Norton in America, non è ancora stato tradotto in italiano ma credo lo sarà presto, e si scaglia un po', facendo il bilancio di questi primi 16 anni di moneta unica, si scaglia contro l'euro e dice che è una delle minacce all'Unione Europea. Come sappiamo, tra gli economisti non sono molti a sostenere questa tesi, tra i politici invece, in Italia non solo, ce ne sono parecchi. Guillaume Duval, su questo magazine francese, dice invece che secondo lui non è così, e scrive per esempio: come la maggior parte degli economisti statunitensi, Joseph Stiglitz sin dall'inizio, durante gli anni 90, quindi ancora prima che partisse proprio la moneta unica circolante, si è mostrato critico verso il progetto della moneta unica, principalmente in nome della teoria delle aree valutarie ottimali, un argomento analizzato fin dall'inizio degli anni 60 da Robert Mundell, che tra l'altro nel 99 vinse il premio Nobel per l'economia, e già in quel punto, in tema di politiche monetarie, si scagliava verso la creazione di queste nuove monete. Il giornalista francese, che ha una solidissima formazione economica, scrive poi: l'elemento più irritante nella riflessione di un economista progressista come Stiglitz è l'evidente incomprensione della posta in gioco politica della questione. L'euro è anzitutto uno strumento che permette di segnare la rottura con l'approccio liberale dell'Europa mercato. Fino al prima dell'euro, il mercato unico era caratterizzato non solo da dumping fiscale e sociale, problematiche tuttora esistenti, ma anche dal dumping monetario. E in Italia sicuramente ne sappiamo qualcosa, perché questa idea di dumping monetario altro poi non è che la possibilità per alcuni paesi di svalutare per ottenere i vantaggi sull'export grazie alla svalutazione della propria moneta. Passiamo a un altro argomento, e passiamo anche a un altro paese, a un'altra lingua, questa volta dal settimanale Der Spiegel, che vuol dire lo specchio in tedesco, è uno dei due più importanti news magazine tedeschi insieme a Stern. Questo settimanale, come peraltro è accaduto già molte volte in passato, si occupa del governo italiano, del presidente Matteo Renzi, che fin dal suo arrivo, essendo il più giovane in questo momento premier europeo, ha suscitato molta curiosità e anche aspettative, non solo in Italia ma anche all'estero. In questo caso in particolare Spiegel si è occupato di quel vertice tra paesi mediterranei che ha così scatenato anche qualche malumore, soprattutto in Germania, perché è sembrato appunto che insieme a Tsipras in Grecia e agli spagnoli, ai politici spagnoli, e qui diciamo solo per inciso che in questo momento la Spagna è senza un governo e senza un premier, insieme appunto a questi altri paesi mediterranei, hanno dato l'impressione di voler assumere una posizione sempre più forte contro invece la Germania. Una volta si parlava di asse franco-tedesco, ora invece sembra proprio che la Germania, soprattutto dopo la Brexit, sia nel nord Europa, sostenga la linea dell'austerity, della sacralità del patto di stabilità, insomma tutte cose di cui abbiamo discusso molto nei giorni scorsi. Invece El País, il quotidiano spagnolo, si occupa di Italia e facendo anche un parallelo con altre situazioni europee e con la stessa situazione spagnola, spiega come quello che sta succedendo a Roma con la crisi, l'evidente crisi della squadra del sindaco di Roma Virginia Raggi, mostra come non solo siano in crisi i tradizionali partiti europei, ma anche questi nuovi movimenti. E anche qui il parallelo tra Italia e Spagna è opportuno, perché Podemos, che è viene spesso paragonato al Movimento 5 Stelle, Podemos in Spagna, aveva, come il Movimento 5 Stelle, suscitato tante aspettative, raccolto molti voti di protesta, e poi però non è riuscito a concretizzare un progetto di governo. E quindi appunto questo confronto e poi anche un tentativo di analisi che forse dall'esterno a volte può essere più semplice, a volte invece forse è semplicemente una semplificazione, scusate il gioco di parole, però anche dalla Spagna cercano di capire se il Movimento 5 Stelle è in crisi non soltanto perché Roma è una città difficile, perché Virginia Raggi ha raccolto un'eredità altrettanto difficile dai sindaci precedenti, ma anche perché il movimento stesso si sta spaccando al suo interno. Sempre El País si occupa poi di se stesso e appunto del fatto che il paese potrebbe andare alle seconde elezioni anticipate perché non si riesce a formare un governo. Però secondo El País il 71% degli spagnoli non vuole che il paese vada in dicembre a queste nuove elezioni politiche perché ci sarebbe un elemento di instabilità che secondo El País è comune anche ad altri paesi europei, mettiamoci anche l'Italia, dove magari un governo che sicuramente non suscita entusiasmi, una situazione politica che non suscita entusiasmi, è comunque preferibile a una totale incertezza, a una campagna elettorale permanente. E ripeto, in Italia noi ne sappiamo qualcosa. Torniamo in Germania con un articolo della Süddeutsche Zeitung che ha poi anticipato una sorta di annuncio fatto da Financial Times sulle reali intenzioni della Commissione europea, perché la Süddeutsche Zeitung questa scorsa settimana aveva parlato di un piano elaborato tra Germania e Francia per ristrutturare la politica di difesa dell'Unione europea. E forse ricorderete che ne aveva parlato anche la Federica Mogherini, che è l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, cioè un po' il ministro degli esteri dell'Unione Europea. Abbiamo sempre sottolineato come sia quasi una specie di ministero senza portafoglio, perché le intenzioni possono essere ottime, quelle di avere una politica estera comune, ma la politica estera è materia che compete oggi come oggi ai singoli stati e soprattutto gli eserciti non sono mai stati messi in comune. In occasione della crisi ucraina il tema è stato risollevato, ma in generale, anche per quanto riguarda, per esempio, il fronteggiare le ondate migratorie, con il ruolo che possono avere i soldati, come per esempio, e sicuramente con il ruolo che stanno avendo la Marina Militare, per esempio, italiana, dimostra che forse è ora di pensare seriamente a una politica di difesa comune. Questo, vi dicevo, lo anticipava la Süddeutsche Zeitung e poi il giorno dopo su Financial Times è uscito questo articolo che conferma che Bruxelles sta proprio lavorando a un piano per l'emissione di bond per la difesa europea, perché gli eserciti, sappiamo, vanno finanziati e quindi il progetto, l'idea può essere buona, poi però se non si riesce a finanziarli. E da qui proprio un'intervista del vicepresidente della Commissione europea, Erika Tainen, che spiega che come primo passo bisognerebbe appunto procedere con questi bond per assicurare una copertura economica. A proposito di, invece, abbiamo appena accennato all'immigrazione, sulle Figaro è uscita una intervista al ministro greco incaricato di immigrazione, Yannis Mouzalas, che ha chiesto un meccanismo europeo di ritorno che consenta di accelerare il rinvio dei migranti verso i loro paesi di origine, quando naturalmente, lo ricordiamo, sussistano degli accordi per questo tipo di operazioni, perché a volte non è possibile, non è così semplice rispedire i migranti ai loro paesi di origine. Io ricordo una volta un'intervista a un nostro militare che lavorava in uno dei centri di immigrazione della Sicilia, diceva: ma che cosa pensate, che possiamo metterli nei cannoni e rispedirli nei paesi di origine? Non si può fare, cioè, a volte i proclami si scontrano poi non tanto con la burocrazia, ma proprio con le leggi. Questo articolo, come vi dicevo, è apparso sulle Figaro e ci sono alcuni dati abbastanza impressionanti che, per esempio, durante la chiusura delle frontiere, più di 50.000 migranti e rifugiati si sono ritrovati bloccati in 3 settimane in Grecia. E dopo questa intervista alle Figaro, tra l'altro, era in programma un incontro tra questo ministro per l'immigrazione, Yannis Mouzalas, e il ministro degli interni francese, Cazeneuve, ma non è dato sapere se c'è stato poi un accordo fruttifero. Vedremo, perché tante questioni hanno oscurato l'immigrazione, ma mentre noi non ne parliamo, i flussi migratori continuano, specie finché continua questa ondata di caldo che sta durando in settembre, abbastanza anomala non soltanto in Europa. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli e un arrivederci a sabato prossimo. Rassegna stampa Europa. in collaborazione con Euronet Plus.